Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Pregabile, come dire, Pippo Baudo, francamente ho suggerito al direttore di Re1 di Biancalè che le Kessler sono ancora vive, quindi potreste completare il cast, credo costino pure poco, insomma, siano anche signore di piacevole presenza. Volevo dire, Brunetta, la legge prevede la pubblicazione, Brunetta, di tutti, ma stia tranquillo, presidente, dimostrate voi di 5 stelle dalla mattina alla sera in aula alla Camera, Brunetta, e non è perché cambia ruolo in questo momento impedisce il dibattito, glielo dirò anch'io in aula allora, sì, quando, però, dico, quando lei fa casino in aula lei... Andiamo avanti. Andiamo. È utile, no, è utile e costruttivo. La norma prevede anche i compensi di natura artistica, tutti. È stata solo una interpretazione della RAI che ha escluso, ma la norma è chiarissima, sia grazie, quella della tolta disclosa, quella del decreto 2013. Okay, quello che volevo... Mi chiami magari onorevole Brunetta, che è forse meglio, signor Presidente. Deputato Brunetta, grazie. No, onorevole, perché la tradizione di questa casa è onorevole. Posso decidere se chiamarlo deputato? Com'è che farò io senza l'onorevole deputato Dott Brunetta? Come farò io un mese senza Brunetta, l'onorevole Brunetta, il deputato Brunetta? Come faremo? Come farete? Allora, saluto Cristian da Bolzano, Laura da Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Un ascoltatore che mi dice: dai, se vieni in Sicilia puoi chiamarti, faccio mangiare il miglior gamberone sulla piazza. Va bene, dai. Se passo da quelle parti, faccio sapere, faccio un fischio. Grande Remo dalla Dig, un abbraccione anche a te, buone ferie. Qui c'è qualcuno che ti trova a venire a trovare e continua a dire che verrà a trovarti. L'ultima volta ha detto in diretta che verrà a trovarti. Remo ci sta ascoltando da la Dig Seychelles. Chi deve intendere ha inteso. Saluto Francesco da Formia. Saluto Dieng da Paese, eccolo qua, anche oggi si è svegliato. Saluto Paolo e Gabriella, ci stanno ascoltando in questo momento da Cracovia. Sono lì per seguire la giornata mondiale della gioventù, ecco il Papa che ieri ha fatto un ruzzolone, ma insomma si è rialzato subito. Ciao Paolo, ciao Gabriella. Mi dicono un'esperienza fantastica, mi scrivono. Allora, siamo qui intanto per l'ultima puntata della stagione di 24 mattino. Grata qui, stare in ferie. Sì, vado in ferie e poi il 5 settembre siamo ancora qui. E, ho chiamato due cari amici, prima che due colleghi. Insomma, uno che l'abbiamo trovato in ferie, sbrandato. Io un po' l'invidio perché lui da settembre mica si sveglierà più come noi, mica si sveglierà più come Lorenzo Nespoli qui in redazione, come Peter Bescapè in regia. Lui, il nostro Federico Novella, cambia lavoro. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno. Cambio lavoro. Pipita, pipita, pipita. Anche lui. Per l'ultima volta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come stai? Come stai? Bene, bene. Tu, Federico, Federico andrà a condurre il TG4. Esatto. Dalle 19, dalle 19. Quindi ah, non quello lavoro. Delle 6 del mattino? Non quello no. Delle 6 del mattino. No, guarda, guarda, ci ho provato, ma per conservare la mia salute fisica e mentale hanno detto no, forse è meglio se ti mettiamo di pomeriggio. Ma e come quindi... fanno in tangenziale il camionista rumeno che ti aspetta in curva vicino a Cologno Monzese tutti i giorni? Beh, ma il camionista lo riprendo al ritorno, quando esce, quando ritorna verso casa. È giusto, perché lui lavora 16 ore al giorno, per la sicurezza di tutti noi sulle strade. Esatto, e la sbarra si alzerà comunque, ma si alzerà al tramonto anziché all'alba, quindi ecco, questo è il cambiamento. Ti auguriamo, almeno visto che hai maturato questa scelta, non ti sveglierai più ore e ore di code in tangenziale. Mi sembra il minimo, perché il bello di svegliarsi alle 5 è che non c'è traffico. No, non è lui, è uno dei pochi lati positivi che non c'è traffico. Ti dicono infatti, ma tu a Milano come vivi che c'è un traffico bestiale? Ma come vivo? Io il traffico non lo vedo. No, ma hai visto il traffico a Milano? Com'è? Esatto. No, cioè, mi sembra di stare in strade di campagna. Strade. Va bene, insieme a te, caro Federico Novella, c'è la nostra Veronica Gentili. Buongiorno amici miei, avete finito di fare Chip e Chop? No, vabbè, no, insomma, ti aspettavamo con ansia. Guarda che ti ascolta Remo dalla DIG. Diamo un enorme bacio a Remo e ribadisco con molti testimoni che andrò alla DIG. Milan, lo fa il furbo alla Veronica, che la tua moglie poi ti rinvolta un carzino. Allora... mi sembra chiaro. Vabbè, il messaggio, mi sembra abbastanza chiaro. È arrivato dritto così. Vabbè, allora io per l'ultima puntata devo dire, ho invitato Veronica Gentili, ho invitato Federico Novella, che sono due amici con i quali condividiamo anche una chat su WhatsApp vietata ai minori di 50 anni, 52 anni. C'è da dire, Veronica, c'è da dire, Federico, che non è che siamo gli unici in questa chat, mancherebbe una persona per... Manca il leader, proprio il leader della chat. Il leader. Potremmo, che ieri ho anche visto, quindi potremmo mandarle un bacetto. Mandiamole un bacetto, è la nostra Rossella Brescia che... Adesso costa Rossella Brescia una cosa assurda. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei, il cretino d'un Milano. Va bene, va. Chi pronto? Pronto? Rossella? Eccomi. Ma ti abbiamo rubato RDS, ti abbiamo ingaggiato. Siamo tutti quanti. Un secondo, non potevo mancare all'ultima puntata, all'ultima sveglia, insomma. È la nostra Rossella Brescia, signori. Rubato. Un brindisi, ubriachiamoci alle 6 di mattina. Siamo tutti e quattro. Ma è fantastico. Pensa Antonio da Bari come è interessato a questo momento. Pensate immagino. Giorgio d'Ancona come? Va bene. Un grande momento di radio. Ti supplico. Perché non metterla? Perché questa mi porta una sfiga tremenda. No. Cancella, Peter, tira via. Fa le canzoni. Ti supplico. Ma io non ho sentito nessuna canzone, Rossella. Io ero rimasta la signora che ti dava un sacco di botte stamattina. Cioè, praticamente. Anche più avvincente, diciamolo. Che più avvincente, cioè, bravo, esatto. Federico. Un sacco di botte per Rossella Brescia, un sacco di botte per Veronica Gentili. Da quando abbiamo fatto outing, io e Milan è finita così, lo sapete, no? È così. E ora partiamo domani. Vabbè. Partite? Noi partiamo tutti. Rossella, non lo so, possiamo tenerti qui a oltranza così tu non vai in onda a tutti i pazzi per RDS? Allora, ma mi vuoi far proprio perdere il lavoro l'ultimo giorno? No. Effettivamente. Vabbè, se poi mi prendete lì a Radio 24 va bene, Scusate, ma neanche un galettone facciamo? Non so perché, ma Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè hanno esultato come un gol del Pipita. Ti stavano già togliendo la poltrona da sotto la sedia, Esatto. Non lo so, è bene sapere che c'è grande affetto, grande legame. vedi, che carini che sono. Vabbè, che dobbiamo fare? No, Rossella, ti ringraziamo, so che devi andare in onda, infatti, c'hai questa piccola incombenza. Io vi ringrazio Vi ringrazio, mi raccomando con gli sciocchini, sciocchine stamattina. Adesso oggi faremo proprio un tripudio. Un tripudio di sciocchini. L'apoteosi delle sciocchine. Rossella, ciao. Un grande abbraccio ovviamente, buone vacanze. Ci sentiamo nella chat. Un abbraccio a voi, vi adoro. Ciao. Ci sentiamo nella chat. Ciao. Vabbè. Quante emozioni questa mattina. Abbiamo fatto, hai visto, proprio la sagra di paese tra no, di noi. Ma infatti. Sembra di stare a mattino 5, guarda. Devo dire che Christian dice che oggi una certa quota è a livello 200%, credo sia la quota bellezza maschile. Si riferisce, sanguigna, si riferisce a me e Federico Novella. È evidente. Vabbè, è ovvio, si sa. Vabbè. Allora, signori, qua dobbiamo parlare anche di cose serie perché succedono cose serie. Dai, ve lo chiedo subito. Secondo me la notizia più interessante è questa. Voglio subito essere polemico con Veronica Gentili. È strano. È la prima volta. Guardalo qua. Poi ti dicono che la religione non c'entra. Guardalo qua. Dov'è che l'ho messo? Guarda. Eccolo qua. Germania. Blitz contro i nudisti in Germania. 20 studenti musulmani in Germania al grido di Allah Akbar, andrete all'inferno, siete infedeli, vanno dai bagnanti nudisti nei pressi di non so dove, nel nord della Germania, a urlare vi vestirete tutte alle donne, siete infedeli, verrete colpiti. Cara Veronica, un piccolo episodio. Tu da nudista che ne pensi, no. Veronica? No. Cioè, in realtà, esatto. Allora, non devi intervenire. Ma la situazione, c'è cioè, Federico Novella, il TG4, dai. il TG4. A Federico Novella ha già dato la testa. Allora, è già impazzito, ma perché ha scelto di vivere, capito? Quindi si sente, no? L'idea di non svegliarsi più gli ha dato la testa. Cara Veronica Gentili, in quanto esperta e scrittrice, nudismo, pensatrice, no? E giornalista e collega, sì. Che ne dici di questa bella notizia? Allora, dico che tu mi sembri abbastanza di parte, mi sembra un'obiezione tendenziosa, perché ricordo che avevi in mente di andare a frequentare il ristorante per nudisti, no? Sì, questo è vero. Questo tutto è vero. Questo nasce questo attorno questo alla tua paura. Perché appunto sono per la libertà e non sopporto quelli che vogliono limitare la libertà altrui, magari per la religione. Ti fornisco una soluzione, basta imparare due versetti del Corano e poi puoi andare nudo al ristorante a vista. Detto questo, diciamo che sì, tra tutto quello che sta succedendo ora, questi due così ragazzi giovani che vanno a fare questa un po' pagliacciata, perché poi di fatto non credo che si sia risolta in maniera particolarmente drammatica, chiaramente insomma... Sì, è un segno di intolleranza, però nel panorama generale mi sembra non l'elemento principale, ecco. No, vabbè, ma per dire, vedi come non vuole dire che la religione, insomma, motiva alcuni no, di questi fanatici. Su questo però noi possiamo iniziare una lite arrivando io e te poi a finire la sciabolata senza va bisogno dell'intervento dell'ISIS, però tu credi che l'ultima mattina la vuoi spendere così? No, va bene, non voglio. Ma io andrei in un campo nudista a dire rivestitevi perché non ve lo potete permettere. Questo. Ma tu che stai già in vacanza, non lo stai già facendo? Scusami, io mi aspettavo. Naturalmente sì, fortunatamente siamo in radio, perché altrimenti non avrei partecipato. Insomma, però evidentemente sì. No, ma non rivestirti, caro, figurati, non direi mai una cosa simile. Tu sei la qui gioia del popolo femminile. Qui finisce malissimo. Federico Novella non andrà mai al TG4 perché non si potrà presentare livido in onda. Esattamente. Sarò un po' gonfio. Il clima è vacanziero. Peter, passami la paletta un attimo col sacchiello. Paletta? No, la paletta è l'ultimo giorno di scuola. Sì, praticamente è così. È l'ultimo giorno di scuola, un po' di pazienza devono avere gli ascoltatori. Sei come il supplente nell'ultima ora di educazione fisica. Che è veramente il caos. Cioè, la stessa autorevolezza, dice, va bene. Purtroppo, sai, adesso tu che fai le domande, cerchi di chiedere, ma allora secondo voi la Merkel? E noi ti rispondiamo così stamattina. Vabbè, allora, una domanda a scelta, caro Federico Novella, il candidato risponde una domanda scelta, si faccia una domanda e si dia una risposta. Argomento a piacere, dai, forza. Ma è chiaro che, no, tornando al discorso di prima, è chiaro che la religione c'entra. La cosa che mi colpisce è che questa scia di fatti terribili, è come se fosse stata una chiamata alle armi per i cretini di tutto il mondo, che si sentono in diritto, evidentemente, perché cercano, come dice, cercano il gesto plateale. E forse anche noi giornalisti potremmo fare un po' di autocritica, perché magari un po' meno spettacolarizzazione di questi fatti sarebbe utile. Per esempio, tu manderai in onda il TG qua, sai che c'è questa cosa, non mandare i video, non mandare le apologie di terrorismo, non mandare le foto, i nomi dei terroristi, che ne pensi, Federico? No, le foto e i nomi dei terroristi secondo me si possono mandare. Quello che potremmo evitare di fare è romanzare l'attentato terroristico. Romanzare significa mettersi a raccontare la storia del terrorista: era un bravo ragazzo, ma era una persona normale che poi è impazzita, perché se tu li trasformi in eroi negativi, molta gente sono semplicemente eroi, poi sono come i protagonisti di alcune fiction, no? Che magari sono degli assassini seriali, ma diventano degli eroi negativi, ma pur sempre eroi. No, l'idea di non romanzare, sono d'accordo con te, cioè, ma qui dipende sempre dal fatto che partono 20 inviati e poi bisogna fargli scrivere 20 pagine. Però secondo me ha anche un suo senso, cioè, in qualche modo mi sembrava uno dei dibattiti più riflessivi dei dibattiti, cioè su se stessa, che la stampa sta facendo, la stampa e non solo, insomma, l'informazione, quello di chiedersi quanto ci sia di speculativo, anche chiaramente di marketing, di commerciale. Sì, esattamente, nel raccontare queste storie, e quanto invece ci sia una reale necessità di informazione, perché su questo secondo me è un elemento molto importante l'uscire dall'anonimato, no? Ne parlava Recalcati l'altro giorno, secondo me in tutto questo frangente, al di là delle polemiche inutili del dire allora sono tutti pazzi scappati dalle cliniche psichiatriche, non è questo, però l'elemento psicologico incide molto, per cui l'idea che tutto questo abbia una risonanza così profonda, appunto, che le loro foto troneggino in prima pagina, che finalmente ci sia come un riscatto da queste vite nell'ombra, è un elemento che secondo me incide molto. Io non voglio dire, chiaramente, nell'epoca della rete, del web, dei siti di tutto il mondo, che è sufficiente non mostrare le foto perché loro smettano, ma sicuramente tutta questa attenzione, ma sì, anche direi anche un po' morbosità, che riguarda non solo gli assassini, ma riguarda anche le vittime, se ci fate caso, perché una volta, quando mettevano una bomba il giorno dopo sui giornali e in televisione, non trovavamo lo storytelling di tutte quante le vittime, con la storia di vita di tutte le vittime, di tutti i loro congiunti. Adesso lo facciamo. È difficile controllarle queste cose. Detto questo, noi stiamo facendo analisi. Aspetta, fermati Veronica, perché devo andare il traffico. Pure oggi. Vado in piscina un attimo. A Milano non c'è il traffico a quest'ora, però c'è il traffico. Poi c'è il best of della rassegna stampa. Va buono, sto a dormire anch'io. Dal best of della segreteria telefonica e rientriamo, state con noi. Scusami amore, non è che non ti volevo sposare, c'era il traffico. Tronca. Ti ascolto prima sempre di andare a scuola. Ho saputo che tifi Milan, anch'io lo tifo. Viva il Milan! Lo grande giornalista Alessandro Milan, che vi racconta tutto. Lo bello e lo brutto, lo buono e lo cattivo. Cucì bene che gli manca di imbasticare lo fuoco. Milan, che te pozzino via fuoco, ciao. Alessandro Milan, ora ci mancava l'ombroso. Ma allo specchio ti sei mai visto con quella faccia da triglia che ti ritrovi? Ma che ti mettiamo nella pentola adesso? Ti raccomando, la prossima volta porta della stazione radio in ferie, appresso, capito? La mattina così ci fai sentire lo stesso, che in ferie, capisci, te ti fanno male i ferie. E che ti dico, sciocchina, che come al solito non hai capito un cazzo. Ciao Alessandro, è un anno che ti ascolto e pensavo, con questa voce, bellissimo, caspita, oggi ho guardato su internet e t'ho visto, mi è caduto un mito. O Milan Maria, e stavo sfogliando il giornale qui, sono fiorentino. Ma perché un altro anno ti scrivi anche te abbandando sotto le stelle? Te e la Veronica Gentili. Fate cappotto, ve lo dico io. Ciao. Posso fare l'arbitro? Sì, ma è bellissima questa, abbandando sotto. Questa me l'ero dimenticata, era una grande idea. Sì, ma certo. Non ci siamo mossi per l'anno prossimo. Anacleto, ma siamo ancora in tempo, Anacleto ogni tanto ne tira fuori una di quelle, veramente. Allora, vogliono sapere se sei di Torpignattara, cara Veronica, ci chiede un ascoltatore. No. Ma va, come torca questa domanda? Vabbè, poi ci ma chiedono. Veronica Torpignattara l'ha neanche mai vista. Ma la Gentile è una gnocca pazzesca, peccato sia comunista, ci chiede un ascoltatore. Questa è una cosa che getta così purtroppo nello sconforto. Non posso farci niente. Ho cercato di curarmi in un sacco di modi. Il fatto che sei una gnocca pazzesca o sai che sei comunista? Tutte e due. Ah, no. Beh, la ferillona del giornalista. Prego, non iniziare adesso a sfidarmi e comincio con gli improperi. Lo sai che i miei sono peggio. E poi, attenzione, appropriata. Informazione di servizio, vogliono sapere in che campo di nudisti vai esattamente. Ma su questo devono chiedere a te. Vabbè. Allora, fatemi fare un saluto. Fatemi salutare la fedelissima Alessandra Ferrari che ci segue, mi segue. Da un bel, è bellissimo queste donne che mi sono fedeli senza che le ho toccate con un dito. È così. Poi ti insultano, però in segreteria. Poi mi insultano. Un altro discorso, ecco. Un abbraccione, Alessandra, ovviamente. Torneremo il 5 settembre. Che ti trova, capito? Un uomo pieno di attrattive. Di risorse, molto capace di fare la rassegna stampa, cosa che tutti noi poi, capito, attacchiamoci, chiamiamo il Federico e diciamo bah. Perché loro hanno la chat parallela, quella in cui non ci sono io e dicono bah. Ma ho notato che per i tuoi ascoltatori sei sciocchina per tutto, marchio registrato. Sì, sciocchina, copyright Veronica Gentili, ormai sono la sciocchina. Brevettato, che meraviglia. Molto bene. Brevettato. Poi ti presti, fisicamente appena ti vedono tutti capiscono perché, capisci? Beh, ti mandiamo in vacanza con un'autostima proprio alle stelle. No, ma fantastico. Tu sai già che dovrai smaltire i lividi e non potrai presentarti sullo schermo di Rete 4. No, arriverò bendato, fasciato, così. In penombra. Io insomma, così. Però devo fare una tirata al Fatto Quotidiano. Qui abbiamo Veronica Gentini. Adesso un vero piacere. Avete anche un po' stancato. Oggi pagina 3. Oggi pagina 3 del Fatto Quotidiano. Carlo Tecce, grande amico peraltro, racconta che Renzi va 5 giorni alle Olimpiadi col volo di Stato. Ma adesso è il Presidente del Consiglio, con tutte le critiche che si possono fare. Ma ti pare che non possa andare 5 giorni alle Olimpiadi per cercare, tra l'altro, di portare le Olimpiadi di Roma in Italia? Insomma, non è un po' troppo, Veronica? Che pensi? Renzi alle Olimpiadi, uno scandalo. No, non è uno scandalo Renzi alle Olimpiadi. Diciamo che tutto quello che lui fa si ricopre sempre di quest'aura, no? Per cui lui va lì, lui c'è la narrazione delle Olimpiadi, lui che pensa di poter decidere autonomamente. Vedremo. Non funziona così. Vedremo, ne succedono di tutti i colori. Lui ogni volta sarà alle Olimpiadi, poi scopriremo perché è partito. Prepariamoci, sicuramente in questi 5 giorni. Ci sarà da temere, però dici, insomma, che secondo me si iscriverà anche lui all'Olimpiadi. Si iscrive al pentathlon, non lo so, al salto in lungo, qualcosa farà anche lui. È molto probabile, ma stai scherzando? Qualcosa di questo tipo lo farà, io sono pronta a tutto. Che lui non riesce mai a fare le cose sobriamente, non è che quando gli altri capi di Stato vanno sono tutti a dire ma no. Lui è così. Ma meglio così, non ci si annoia mai. Io pensavo che avessimo finito di annoiarci, invece abbiamo appena cominciato. Per esempio, allora voglio salutare anche un altro grande abbraccio a Franco che mi scrive che oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, vado in ferie, lui l'ultimo giorno di lavoro proprio perché va in pensione. Signori, grande Franco, te la sei meritata, sono certo di questo. E ti faccio ascoltare a proposito Poletti, ministro del lavoro, sulla pensione. Sentite qua Poletti. L'idea secondo cui la vita è fatta per blocchi, fino a 20 anni si va a scuola, da 20 a 50 si va a lavorare e da 50 in poi si va in pensione. Beh, a casa si campa con la famiglia. Un po' di mugugni c'erano, 50 in pensione, polettila un po', come dire. Ma 50 in pensione se sei un consigliere regionale, forse. Esatto, forse se sei una persona normale, no. Bravo, se sei un, non lo so, se sei un... Ogni tanto ti fanno venire il dubbio di vivere sulla luna, dici, ma loro dove stanno, in quale mondo va? C'erano un po' di mugugni, infatti, 50, ma come 50? 50 anni in pensione, ma Poletti, ma come? 50 anni, proprio hanno allungato l'età pensionabile. Ma secondo Fornero, me Poletti non ha capito ancora che lavoro fa, no? Come l'anno scorso quando ci fu la cosa delle vacanze estive dei ragazzi, che era meglio non farle, ed era meglio impiegarle a fare degli stage nelle imprese, e ci furono delle polemiche folli. Lui queste cose da ministro del lavoro non le può dire, purtroppo, come il fatto che non ci sono fasce in cui uno deve avere dei ruoli, perché da ministro del lavoro devo sapere che se voglio andare in pensione a una certa età ci posso andare, non devo invecchiare, no? Stare fino a 85 anni. Fa la tirata. Ma questo si inserisce nella retorica per cui i giovani non devono più ragionare con i vecchi schemi perché non c'è più il posto fisso, certo. Allora devono mettersi in gioco, sempre loro devono fare, certo, devono essere operativi, stare su piazza, non possono essere chiusi e devono stare negli space delle imprese da quando hanno 16 anni, così sono già per la verità, poi Poletti ogni tanto lavorare anche un po' gratis, sì, esatto. Fa bene allo spirito. Per la verità, poi c'è da dire che Poletti continuava dicendo, appunto, non c'è più il mondo in cui si va a 50 anni in pensione. Ma a parte con la Democrazia Cristiana le baby pensioni, non c'era neanche prima quel mondo lì. Comunque, adesso è partito il dibattito: non si capisce se sia più gnocco o più comunista. I nostri ascoltatori che dicono sì, è comunista, uno dice mi piace proprio perché è gnocca e comunista. Oh. Questo è il nostro ascoltatore. Saluto e David. Questo nostro ascoltatore mi ama per quello che sono, io lo ringrazio. Grazie. Esatto, saluto anche David che mi dice buone ferie, io devo andare in fabbrica, buon lavoro ovviamente David anche oggi. Non so signori, io vi lascio così, c'è il nuovo selfie di Veronica Gentili che vi basti per tutto il mese di agosto. Sì, però oggi ragazzi, no. Oggi in versione calendario, mi raccomando. No, ragazzi, oggi ne richiedo uno e se non lo fate siete veramente due vili, so che gli ascoltatori sono con me. Nostro. Novella e Milan, selfie adesso. Adesso, aspetta qua, aspetta che apro. Fai vedere a tutti quanto sei sciocchina. Vabbè, mi metti i pantaloni prima. Mi metto col microfono. Lo vedi, eccoli, bel capello Nepoli, metto, come sono carichi. Mi metto col microfono, ok, scusate i capelli. In realtà, scusate anche i capelli, bel Nepoli, scusate la faccia. Un attimo, faccio presente. Vabbè, anche bel capello Nepoli, eccolo qua, per Gentili. Lo sto twittando in diretta. Di qualcosa, Veronica, che mancano 30 secondi. Parlo io, ci penso io. Nel Federico, sì. Nel frattempo ti sei spogliato per il tuo selfie? Perché no, le donne d'Italia fare, mi sta vado ho a un fare po' lezione... di tweet. Vado a fare lezione di Zumba e ci vediamo. Altissimo giornalismo, anno. Signori. Il allora, prossimo conduttore del TG4 sulla destra e la pensatrice sulla sinistra. Ho appena mandato il selfie. Adesso aspettiamo che ci scrivano questo programma com'è degenerato. Voi che fate i cazzari la mattina. Purtroppo è la mattina dei gavettoni. Una ci volta piace. Eravate un programma istituzionale. Adesso esatto. Mi ricordo quando si potevano ascoltare le notizie. Ma chi sono? Comunque il sondaggio fatto all'impronta di. Dice 60% gnocca, 40% comunista. Questo è... Hai vinto il referendum. vi devo dare un abbraccio grande che duri tutta l'estate. Federico, Novella e Veronica Gentili, vi mando un grosso saluto. Ciao. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, siamo qui, è l'ultima rassegna stampa prima delle ferie per quel che mi riguarda, ma poi continua tutto anche senza di me. E allora, cari ascoltatori, ci siamo, poi riprenderemo il 5 settembre, non dimenticatevelo, siamo qui, sarò qui il 5 settembre puntuale con Peter Bescapè, con Lorenzo Nespoli. E allora dai, forza, è il momento della rassegna stampa di 24 mattino, andiamo a sfogliare i quotidiani. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. Un abbraccio anche a padre Livio Fanzaga, ovviamente, ringraziandolo per questa impropria sigla. Allora,